Martedì 6 settembre, nell'ambito di Femminologica 5, avremo in scena un protagonista uomo, Marco Cavicchioli, che è qui con noi, che sarà vestito da donna. Perché? Al di là degli scherzi che ci facevamo prima su questa cosa. Ma molto semplicemente perché porterò in scena un testo che, appunto, detto così può far ridere, ma in realtà è un testo drammaticissimo ed è la storia di un uomo che non riesce a capacitarsi come sua mamma abbia potuto soffrire così tanto per tutta la vita, tanto da non poterlo neanche accudire quando era piccolo perché gli è stato sottratto, eccetera eccetera. Su questo uomo, questa immagine di donna che ormai vive soltanto ricordando le sue sofferenze, ha un impatto molto forte, al punto tale che c'è una identificazione totale e al punto tale, non posso rivelare il finale, che lui decide di emularla. Praticamente io faccio un uomo che si mette nei panni della sua mamma vecchia e malata, che ha attraversato la galera, i campi di concentramento, gli ospedali psichiatrici di tutti i tipi, eccetera, eccetera, e ne racconta la vita, cercando di mettersi nei suoi panni e di capire la sofferenza di questa donna, che però ha influenzato anche sulla sua vita, perché la donna non è mai uscita da quegli shock e ne parla continuamente, e quindi anche sul ragazzo che poco è stato con lei, quel poco che ci è potuto stare in età adulta, è stato uno shock di vedere una donna che portava le stigmate di una sofferenza pazzesca. Detto così può sembrare tragico, ma lo spettacolo ha un buon ritmo ed è fatto con il ritmo, cioè praticamente questa imitazione, identificazione totale della madre diventa una forma quasi di schizofrenia o di sdoppiamento della personalità, no? Un po' come in Psycho di Hitchcock. E lui ne assume talmente tanto le stigmate di questa madre che alla fine è lui stesso, questa donna. Uno spettacolo per un attore molto, molto difficile, perché è una prova d'attore abbastanza dura, però è molto bello. Tra le tante, io credo che anche se dura un'ora e un quarto, non sia mai noioso, perché le vicende di questa donna sono reali, nel senso che Achterbusch, quando era giovane, le fu affidata una zia indigente e lui l'ha presa sotto tutela, come il personaggio dello spettacolo, e quindi lui ha vissuto questo stato di abbandono che c'era dei malati psichiatrici allora. E anche probabilmente di un sommario censire come malati psichiatrici delle presunte anomalie di comportamento. Esattamente, esattamente, esattamente. E infatti il personaggio di Ella in realtà non è pazza. Il personaggio di Ella darà molte prove che lei è saggia, sì. Lei è molto intelligente. Questa però è la vera tragedia della storia. Sì, perché lei lo dice, io sono nata pazza, ma poi non ci crede e fa vedere che lei ha sempre cercato fra i malati quelli che con l'intelligenza c'erano per poter parlare con qualcuno, e quando è in uno stato di grave situazione di reclusione, la cosa che gli mancano di più è il libro. Non ha un libro da leggere e si dispera ancora di più. Quindi è una figura in realtà che, se non avesse avuto così tanta violenza, avrebbe sicuramente avuto il talento per poter dire la sua come donna libera. E lei è una donna libera, lei scappa dai manicomi, lei scappa dalla famiglia. E la cosa più tragica è che lei adora sua sorella, che lo ha presa a casa come tutore, ma la fa vivere in un pollaio. Quindi lo spettacolo è ambientato in un pollaio, dove lei si è messa a un letto, due superlettili e rivedi. Ecco, raccontavi prima che questo è uno spettacolo teatrale che io non conosco, e anzi lo verrò a vedere, ma è abbastanza famoso ed è stato già portato in scena da tuoi colleghi. Sì, è abbastanza famoso perché, vabbè, in Germania è stato un best seller. Cioè negli anni 70, 80 e 90, la Costa e Nolan pubblicò questo libro, Il teatro di Achterbusch, con tre testi, Ella, Susan, sempre personaggi femminili forti, il terzo uscita per Plattern, e parla di questi villaggi della Baviera, dove nel sottobosco dei villaggi della Baviera, come del Tirolo, di Thomas Bern, c'è la follia proprio, c'è la follia dell'isolamento, la follia della mancanza di luce, eccetera, eccetera. Ebbe un grosso seguito, molti attori tentano di cimentarsi con questo Ella di Atterbus, perché è un testo veramente molto, molto completo, e sul discorso dell'attore e il suo doppio, qui c'è anche il triplo, capito? È un testo molto, molto particolare, secondo me. Quindi diamo appuntamento martedì 6 settembre per questo Ella alle ore 21 al Parco di Villa Spada. Oh yeah!